Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quanto è destinato a diventare un fattore competitivo per aziende, brand, progetti, persino per le persone, il proprio impatto sociale? Guardando alle abitudini, alle scelte dei consumatori, soprattutto dei cosiddetti millennials, possiamo già dire moltissimo. Le nostre decisioni d'acquisto saranno sempre più guidate dalla fiducia che sceglieremo di dare a un brand in relazione al suo impegno per l'ambiente, la società, la comunità, tutti i fattori di cui parleremo sempre più in termini di necessità, non di opportunità. Ecco perché temi quali l'approccio etico di un'impresa, la sua responsabilità sociale, l'impact investing, gli investimenti in grado di generare benefici per la società oltre che rendimenti finanziari, oppure le benefit corporation, le aziende che vogliono affiancare all'obiettivo del profitto quello dell'impatto sociale, ecco perché dicevo, tutti questi temi stanno diventando sempre più protagonisti nel dibattito sui consumi, sul marketing, sulla comunicazione. Questo lo scenario. Noi, come sempre, siamo andati a caccia dei segnali di un futuro molto più vicino di quanto si pensi. Forse l'etica è una scienza scomparsa dal mondo intero. Non fa niente. Dovremo inventarla un'altra volta. Jorge Luis Borges. Riconoscere e dare visibilità alle aziende più etiche al mondo, individuando quelle che saranno le migliori pratiche di business etiche del domani. È quello che fa ogni anno l'Ethisphere Institute, che da 10 anni a questa parte pubblica la lista delle aziende più etiche al mondo, appunto. Unica italiana presente per il 4º anno consecutivo, Illy Caffè. Il riconoscimento di un lavoro che parte da lontano, ci ha detto il presidente Andrea Illy. Il riconoscimento di un grande lavoro che abbiamo fatto fin dalla, diciamo, fondazione della nostra impresa, che è nata da un sogno, che è il sogno di offrire il migliore caffè al mondo, ma di farlo con un approccio che coinvolga tutti quanti i portatori di interesse, i cosiddetti stakeholder si chiamano in inglese, perché in effetti non si potrebbe fare un caffè eccellente se non avessimo chi lo produce nelle piantagioni. E chi lo produce nelle piantagioni sono famiglie, sono 25 milioni di famiglie in 70 paesi del sud del mondo, molte delle quali non sono ancora uscite neanche dalla povertà. Solo trasferendo conoscenza e instaurando delle relazioni di lungo termine con questi, diciamo, agricoltori nei 20 paesi da cui compriamo il caffè, possiamo poi trarre quella qualità. E questa è una catena che bisogna continuare a rafforzare, da cui al nostro impegno, che evidentemente è stato valutato positivamente da Ethisphere. In che misura l'impatto sociale delle imprese sta diventando un fattore competitivo sul mercato, non più solo accessorio? Forse ci stiamo rendendo conto pian piano nella società che in realtà le imprese, il mondo dell'impresa privata, e le imprese sono costruttori della società, ma è un discorso algebrico, perché circa il 90% dell'occupazione, del prodotto interno lordo e dell'innovazione viene fatto dalle imprese private. Quindi se noi vogliamo costruire una società migliore, rendendola più sostenibile, dobbiamo partire dalle imprese, dalle nostre imprese. Quindi questa sensibilità che sta nascendo un po' anche nella società implica che sempre di più le aziende sostenibili non saranno solo fonte di vantaggio competitivo, ma saranno fattore critico di successo, nel senso che non sarà permesso al mondo dell'impresa non essere sostenibile. Per questa cultura dell'etica, tra l'altro, che vedo nei fattori di scelta del modello di Ethisphere per la classificazione, quanto sono necessari degli indicatori trasparenti, una sorta di misurazione, di modelli di misurazione che siano universali? Ma guardi, io sono qua in Giappone adesso, lei mi sta intervistando, che sono a Tokyo. Sono 25 anni, sono venuto 40 volte qui a imparare ai giapponesi e la regola numero uno della qualità è che non c'è qualità se non c'è la misura. I KPI cosiddetti, Key Performance Indicator, sono l'unico modo per dare un riscontro oggettivo a quello che si fa. tutto è misura, non c'è qualità senza misura. E stessa cosa, la sostenibilità è una, se vogliamo, un modo più alto di parlare di qualità, o potremmo parlare di qualità totale. A definire la nostra identità social, oltre ad amici, like e follower, ci fosse anche il nostro impegno sociale. È l'idea alla base di Social Stars, piattaforma e app che si propone di rendere virale l'impegno sociale. Ce la siamo fatta raccontare dal suo fondatore Andrea Pabis. Social Stars vuole essere uno strumento di comunicazione efficace e dedicato per le associazioni e le organizzazioni non profit, che permette quindi di comunicare gli eventi e i progetti socialmente utili che vengono realizzati sul territorio. Funziona come un social network? In principio sì, perché dall'altra parte ci sono logicamente i cittadini, gli utenti, che oltre ad avere la possibilità di informarsi e quindi di trovare gli eventi socialmente utili che più gli stanno a cuore, permette comunque di interagire sia con gli altri utenti sia con le associazioni in diversa maniera. Si può dare un like a un progetto, si può condividere determinati eventi e progetti sui propri social. Si può quindi interagire completamente con la piattaforma. Al posto dei like, diciamo così, ci sono queste stelle sociali che rappresentano viralmente l'impegno, è così? Esattamente. Ogni azione che viene realizzata sulla piattaforma, ma anche attraverso l'app, si trasforma praticamente in stelle sociali. Le stelle sociali diventano quindi il, diciamo, grado dell'impegno sociale di ogni cittadino, ma anche delle associazioni, e queste stelle sociali nel tempo cambiano di colore, acquisiscono quindi un'importanza maggiore. Così come l'impatto sociale sta diventando un elemento competitivo per le aziende, il vostro obiettivo dunque è quello di rendere evidente per gli utenti il proprio rating sociale, chiamiamolo così. Esattamente, diciamo che le persone riusciranno a differenziarsi attraverso le stelle sociali in maniera chiara sull'aspetto, diciamo, appunto dell'impegno sociale, mentre negli altri social si guarda più magari agli aspetti privati oppure agli aspetti professionali, in Social Stars si può, diciamo, intuitivamente con le stelle sociali vedere il grado dell'impegno sociale delle persone. Un altro aspetto, diciamo, che consideriamo molto importante sarà la viralizzazione, in quanto gli utenti potranno nei propri profili social, quindi su Facebook, su Twitter oppure su LinkedIn, fare partire da Social Stars dei post che comunicheranno quindi alla propria rete di amicizie e di conoscenze che l'utente stesso sta guadagnando dalle stelle sociali. Quindi l'auspicio è quello che presto, a definire la propria identità social, così come ora ci sono gli amici, i like, i followers, presto ci potranno essere anche le social stars, è così? Esatto. Aziende e persone dunque classificate, diciamo così, in base al proprio impatto sociale. Manca la pubblicità, la comunicazione etica. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Nella seconda parte spazio anche ai consumi immediati. Obiettivo attesa zero per prodotti e servizi. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, ripartiamo da un dato. 7 consumatori su 10 pensano che la pubblicità non sia etica, non sia basata su dati statistici e non racconti cose vere. Si sentono ingannati in particolare dalla pubblicità di integratori alimentari, cosmetici, merendine e biscotti. E quanto emerge da una ricerca presentata in occasione del lancio di Ethics Go, istituto indipendente di certificazione della comunicazione, il fondatore Giuseppe Patat. Questa startup, perché si tratta di una startup innovativa riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico, che da circa un anno e mezzo, quindi dalla sua fondazione, ha cercato di realizzare un proprio modello e un metodo di analisi della comunicazione pubblicitaria, in particolare quella del labeling e quindi delle etichette. Diciamo che l'obiettivo è quello di creare un organismo terzo realmente indipendente che possa sopperire anche ad alcune carenze delle istituzioni che, benché siano presenti, eccetera, non riescono a controllare questo fenomeno della pubblicità ingannevole. L'idea è quella di poter dare una garanzia al consumatore, ma nello stesso tempo garantire anche e soprattutto le imprese, proprio perché riteniamo che oggi è possibile che l'impresa possa interpretare appunto una comunicazione etica come strategica per il proprio futuro. Oltre il 70% dei consumatori pensa che la pubblicità non sia etica e non racconti cose vere. Questo emerge dalla ricerca che avete commissionato, quindi insomma all'Istituto di Ricerca SVG. Quindi emerge una necessità sul mercato. Proprio per questo che diciamo che accanto alle istituzioni importanti come la GCM, l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, è molto importante che ci sia, diciamo, qualcuno che faccia qualcosa di diverso. In che misura l'etica nella comunicazione sta diventando un fattore di competitività? I consumatori guidano le scelte in questo senso? Sì, devo dire che i consumatori sono sempre particolarmente più attenti. È molto innovativa questa cosa. Noi ci preoccuperemo intanto di arrivare a garantire perlomeno la legalità della comunicazione, l'ammissibilità. Hello, allegria, allegria, signore e signori, benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami? Aladdin. Che cosa vuoi chiedermi? Focus sui trend. Parola d'ordine: attesa zero per il mondo dei consumi e dei servizi. Dal Vedi e Compra, inaugurato alle sfilate di New York, la possibilità cioè di comprare subito online i capi visti in passerella senza aspettare l'arrivo della collezione mesi dopo nei negozi, ai nuovi servizi di Amazon che garantiscono la consegna in un'ora dal momento dell'ordine, passando poi per le vetrine interattive e le app che anticipano l'esperienza del consumo. Ne parliamo con Luisa Schiaro di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata. Ciao Maria Luisa e buonasera ai nostri ascoltatori. Partiamo subito dai casi che hai selezionato per noi. Parliamo di Burberry, che ha riaffermato la propria leadership nel mondo dell'eleganza proprio sviluppando uno spirito digital all'insegna dell'immediatezza. Dapprima con i video delle sfilate in diretta nei negozi e con i messaggi su WeChat, poi con la presentazione dell'anteprima della collezione primavera-estate 2016 su Snapchat e poi da settembre con la vera rivoluzione, cioè un'unica sfilata per le collezioni uomo-donna con una sorta di défilé instant shoppable. I capi infatti potranno essere acquistati nei negozi subito dopo la fine dello show. Sta facendo scuola questa tendenza, questa soluzione? Stanno sperimentando anche Tom Ford versus Diane von Fürstenberg, Michael Kors. Qualcuno però nel mondo della moda la contesta, ad esempio François-Henri Pinault, che è il patron del colosso del lusso Kering, dice che tutto questo annulla il sogno. Tu cosa ne pensi? In effetti in parte sono d'accordo con lui, cioè si può dire che nel consumo dal sogno si sta passando a una sorta di eccitazione del controllo sul presente sempre più istantaneo, fatto proprio di singoli momenti di soddisfazione e sorpresa. Un altro caso davvero interessante anche da questo punto di vista è quello che accade nella vetrina interattiva di Barilla. È stata presentata proprio all'inizio dell'anno dall'azienda. Possiamo considerarlo un vero e proprio elemento di comunicazione immediata. Cioè, per il terzo ristorante che ha aperto Barilla a Herald Square a Manhattan, ha creato una vetrina interattiva che è direttamente collegata con i social network, cioè ci si può posizionare davanti e interagire con semplici gesti, come se stessimo usando il proprio smartphone, e quindi leggere commenti su TripAdvisor del ristorante, conoscere le ricette, i piatti proposti da Barilla all'interno del ristorante. Attesa zero, dicevamo, un tema centrale è ovviamente per ordini e consegne, Luisa. Sì, è un altro aspetto molto importante questo. Un nuovo modo di ordinare, per esempio, è quello che ha inventato in partnership Ford, la casa automobilistica americana, con la pizza Domino's di Domino's, una maxi catena di produzione americana. Si chiama Tutto al Volante ed è una piattaforma proprio di ordinazione. Guidando un'automobile Ford si potranno fare le ordinazioni anche solo dettandole attraverso chiaramente l'installazione della app sulla propria auto. Tra l'altro Domino's aveva lanciato anche gli ordini via WhatsApp con l'emoticon della pizza, quindi anche quello, insomma, all'insegna dell'immediatezza. Sì, esattamente, lì anzi quasi con un certo divertimento, anche se vogliamo, certo, un aspetto anche un po' ludico. Ecco, poi come l'hai già citato anche tu in anteprima, anche Amazon ha lavorato su questo, riguardo soprattutto l'aspetto delle consegne, con una soluzione che ha chiamato Amazon Flex. La promessa di questo servizio è quello di fare diventare imprenditori di se stessi chiunque. Si tratta di un'attività di lavoro on demand, per cui è possibile diventare un corriere di Amazon consegnando con la propria automobile prodotti acquistati da altro nel sito. Sarà sufficiente scaricare un'app che geolocalizza chiaramente gli iscritti e la posizione dei pacchi da consegnare. Il compito del fattorino sarà quello di prelevare i pacchi dai magazzini e consegnare ai clienti nel giro tutto di soli 60 minuti. È un caso molto citato e sotto osservazione per tutto l'universo sharing economy, perché inaugura la consegna collaborativa anche in un settore tradizionale, appunto come si può considerare Amazon finora nella sua filiera della consegna. Abbiamo spazio per un ultimo caso. Diciamo che mi sono presa una piccola libertà, nel senso che in questo scenario dominato da quest'idea di anticipazione permanente, chiuderei invece con un esempio un po' in controtendenza, che invece spinge al rallentamento, quasi all'insegna della valorizzazione dell'attesa. E si tratta di Morioka Shen. È una libreria di Tokyo ideata con grande intuito e originalità. Di fatto vende un solo titolo alla settimana, per poi cambiarlo nella successiva. Quindi poi ad ogni volume proposto si affiancano foto e materiali culturali diversi che riguardano ovviamente i temi del libro, quasi creando all'interno del negozio una sorta di mostra. E l'attesa, quindi il rallentamento in questo caso, diventano un valore, perché anche commerciale se volete, perché stimolano la curiosità e la certezza di trovare sempre qualcosa di diverso. Quindi una valorizzazione diversa, il focus però resta l'attesa. Luisa, per chiudere, una tendenza questa dell'immediatezza, di consumi sempre più istantanei, diciamo così, che promette sviluppo? Sì, certo, infatti abbiamo visto casi in cui l'uso della tecnologia stessa supporta e forse anche spinge sempre più nella direzione della tempestività, cioè la capacità di essere rapidi e nel fornire risposte efficaci. Noi in istituto lo chiamiamo come un paradigma, è quello del quick and deep. E in futuro è soprattutto l'ambito dei servizi quello che più di tutti sarà improntato a questo paradigma, e però lasciatemi dire che il successo sarà quanto più in equilibrio tra razionalità, funzionalità ed emozione. Il consumautore. Siamo alla riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo Francesco Morace. Buonasera Francesco. Buonasera Maria Luisa e radioascoltatori. Allora, il nostro percorso alla ricerca, il nostro confronto con il consumautore questa sera dove ci porta? Oggi ci porta dalle consumautrici, che forse dovrebbe essere il vero titolo di questa rubrica, considerando che il mondo femminile in tutte le generazioni è sempre più grande protagonista. influenza i propri coetanei maschi e soprattutto emerge con anche nuovi valori e nuove sensibilità. Colpisce questo ruolo da protagoniste, lo hai detto, in tutte le fasce d'età, dalle più piccole a quelle più mature. Sì, faccio alcuni esempi usando un po' le nostre categorie generazionali. Già a partire dai 9-10 anni, una categoria che noi definiamo di posh twins, e sono davvero le preadolescenti, le ragazzine che hanno però una straordinaria capacità di orientarsi nello stile, nella moda, imitano naturalmente le mamme e hanno soprattutto una grande influenza sui propri coetanei, ma già ad esempio a poi 15-16 anni tutto questo diventa, come dire, legato ai social network. Quindi a 15-16 anni sono le ragazzine, questa è una novità perché prima le tecnologie erano più maschili, a diventare youtubers, bloggers, ecco, quindi è davvero un'influenza che parte da piccolissime e arriva poi fino a un'età più matura, perché anche nella categoria dei pleasure growers, che sono gli ultra sessantenni, sono le signore che riprendono in mano anche il gusto, appunto il piacere del consumo, quindi decidono le mete dei viaggi, le destinazioni, oltre che naturalmente il mondo alimentare, che rimane sempre nelle mani femminili. Questo protagonismo in termini di decisione d'acquisto, appunto, per molti prodotti, che cosa comporta per le aziende? Quali trasformazioni ha già comportato nel marketing e nella comunicazione? Allora, intanto una grandissima attenzione alla cura dei dettagli, perché come sai bene, il mondo femminile è molto più attento a questi aspetti, magari c'è un po' meno di sintesi, diciamo, di visione strategica, ma c'è moltissima attenzione alla qualità, quella vera, quella che arriva dal basso e dalla vita quotidiana. E l'altra cosa è sicuramente il rapporto prezzo-qualità, insomma il valore, quello vero dei prodotti, è molto più una caratteristica femminile, quella di riconoscere il valore delle cose. Quindi parliamo di aziende vincenti, ovviamente tutto quello che concerne sessismo, esclusione, è stato messo da parte ovviamente. Assolutamente, io qui davvero consiglio anche la visione di un film che è Suffragette, che è uscito da pochi giorni nelle sale, perché ci permette di capire in un secolo gli incredibili passi avanti che comunque sono stati fatti nei nostri paesi. Purtroppo questo non si può dire per altre realtà, altre culture, ma sicuramente questa è la direzione del futuro. Ecco, quindi mai dimenticarsi i valori, quelli profondi di discriminazione che sono stati superati, ma nello stesso tempo, ecco, la qualità della vita oggi è donna, insomma, è femminile. Quindi sempre meno gender gap, e viva le donne! Certo. Grazie Francesco, alla prossima. Grazie Maria Luisa. E grazie anche a Pietro Lacorte in regia. Essere Avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.